11:14 di questo martedì 25 novembre, con puntuale ritardo inizia una nuova puntata di Parole Ribelli, la trasmissione a cura del collettivo universitario autonomo sulle libere frequenze di Blackout. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Francesca. E un buongiorno a tutti e tutte anche da Eddie. Andiamo a ricordare i contatti prima di cominciare: 011-2495-669 per chiamare e 346-6673-263 per scriverci a, in redazione. Ora andiamo avanti con un po' di musica e poi presentiamo la puntata. E 19, allora andiamo a cominciare una nuova puntata di Parole Ribelli. Cominciamo questa mattina mattina con un po' di rassegna stampa, dando un po' di aggiornamenti ancora su quello che sta accadendo in Messico. Ricordiamo l'episodio che abbiamo già trattato degli studenti della scuola Normalistas di Ayotzinapa, scomparsi, desaparecidos, 36 studenti. La manifestazione del 20 novembre che ha visto scendere in piazza centinaia di persone per denunciare quello che tante definiscono assolutamente non un episodio isolato, ma la regola di un governo che tace l'ingiustizia e anzi fa uso della forza continuamente contro chi si ribella. E per quanto riguarda invece, diciamo, le nostre latitudini, andremo come sempre a fare un po' di rassegna stampa, in particolare a commentare un episodio accaduto alcuni giorni fa qua all'Università di Torino che insomma ha avuto anche una certa eco sui quotidiani locali rispetto a questa professoressa della facoltà di lingue che si è rifiutata di proclamare dottoresse due studentesse che avevano fatto una tesi sulla Palestina. Poi andiamo in Inghilterra, abbiamo visto anche lì recentemente proteste studentesche di diciamo in numeri enormi, abbiamo visto cortei per Londra, quindi andiamo un po' a commentare la situazione in Inghilterra facendo riferimento in particolare a un articolo di David Graeber, professore alla Goldsmith di Londra, che poi andremo a di cui pubblicheremo una traduzione sul blog. E tornando invece verso quel che accade qui a Torino, andremo a raccontarvi quello che accadrà lunedì prossimo, 1° dicembre, quando ci sarà la consueta cerimonia dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino, che quest'anno insomma si caricherà di ulteriori problematiche, almeno dal nostro punto di vista, perché si terrà nella nuova Aula Magna, che verrà inaugurata proprio quel giorno all'interno della Cavallerizza Reale, quindi insomma una data che apre tutta una serie di discorsi che andremo a presentarvi più tardi. E questo è più o meno quanto, noi saremo qui a tenervi compagnia fino alle 12:45, quindi rimanete sintonizzati, noi vi mettiamo ancora un po' di musica prima di iniziare con la puntata. Start. Grandchildren of Marx and Coca-Cola.

Allora, sulle note dei Rebel Diaz con questa Revolution Has Come, torniamo in diretta con Parole Ribelli. Andiamo a dare qualche aggiornamento su quanto sta accadendo in Messico, dove dalla fine di settembre prosegue la mobilitazione per i 43 studenti della scuola Normalistas di Ayotzinapa, che sono scomparsi appunto dopo una manifestazione. La scorsa settimana vi abbiamo fatto sentire l'audio del collegamento che abbiamo realizzato con alcuni ragazzi italiani che si trovano a Città del Messico, che hanno fondato un collettivo proprio con l'obiettivo di informare su quanto sta accadendo in queste settimane, e insomma anche loro ci avevano presentato questa giornata di mobilitazione internazionale per Ayotzinapa, che era stata convocata per lo scorso giovedì 20 novembre. Quindi grazie insomma anche al comunicato, alle foto che ci hanno mandato, andiamo a darvi qualche aggiornamento su quello che è accaduto. Appunto, questa giornata arrivava come conclusione del giro di 3 carovane che erano state organizzate dai familiari degli studenti desaparecidos, che hanno percorso tutto il paese da nord, da centro e da sud, sensibilizzando insomma le persone che incontravano lungo il percorso e incontrando anche altre realtà di lotta, fra cui ad esempio le ZLN, che nelle settimane scorse ha preso parola su questa vicenda, esprimendo insomma la propria solidarietà, la propria vicinanza ai familiari degli studenti scomparsi. La giornata di mobilitazione di giovedì si è aperta fin dalla mattina, quando un gruppo di circa 600 manifestanti ha tentato di bloccare gli accessi dell'aeroporto internazionale Benito Juarez, che si trova appunto nella capitale. La risposta della polizia è stata quasi immediata: più di 1500 agenti in assetto antisommossa hanno accerchiato il corteo per insomma impedire ai manifestanti di avere qualsiasi possibilità di fuga. Solo l'intervento di un'associazione che si occupa di diritti umani ha permesso poi di scortare i manifestanti che avevano occupato l'aeroporto fino a piazza Tlatelolco, che era la piazza da cui doveva partire la manifestazione del pomeriggio e che era stata scelta in maniera non casuale, perché insomma già tristemente nota per il massacro che avvenne nel 1968 proprio in quella piazza. Appunto il concentramento principale era stato dato alle 5 del pomeriggio, quando migliaia di persone sono partiti da diversi punti della capitale del Messico, formando tre cortei guidati appunto da queste carovane che hanno raggiunto la piazza. Una piazza che era decisamente molto composita, che insomma ha preso parola con forza rispetto a questo episodio di violenza, andando però a svelare un po' la quotidianità di questa violenza, che appunto tutti i giorni in Messico prende varie forme, che è diretta conseguenza di questo intreccio tra organizzazioni politiche, tra istituzioni, criminalità organizzata e polizia, che insomma i ragazzi di Solidaria 43 che abbiamo intervistato la scorsa settimana mettevano bene in luce. Significativa anche la presenza di vari movimenti femministi che si occupano della tematica del femminicidio, che hanno insomma cercato di creare un filo rosso appunto tra questa vicenda di Ayotzinapa e la violenza quotidiana sulle donne, che appunto in Messico assume dimensioni decisamente problematiche e preoccupanti, più anche che in altre parti del mondo. E a questo proposito segnalo che sempre i ragazzi di Solidaria 43 hanno pubblicato su YouTube un video con alcune interviste appunto ai collettivi femministi che erano in piazza giovedì, che è stato tradotto e sottotitolato, quindi potete trovarlo scrivendo Azione Globale per Ayotzinapa, la voce dei collettivi femministi. Può essere insomma una testimonianza interessante tra le varie realtà che erano in piazza quel giorno. E appunto i tre cortei hanno poi raggiunto la piazza della Costituzione, il cosiddetto Zocalo, riempiendola fino a sera, e insomma una parte consistente del corteo, per dare anche un'idea della partecipazione veramente oceanica in questa giornata, non aveva nemmeno ancora raggiunto la piazza quando la polizia ha dato l'ordine di sgomberare violentemente appunto lo Zocalo per allontanare i manifestanti. Nel frattempo appunto un gruppo di studenti della UNAM, l'Università Nazionale Autonoma del Messico, dove la scorsa settimana c'erano già stati degli scontri a causa di alcune provocazioni della polizia che era entrata dentro il campus universitario, hanno dato alle fiamme un fantoccio del presidente messicano Peña Nieto, gridando dimissioni assassino, mentre dal palco parlavano i familiari degli studenti scomparsi e di tutte le altre stragi commesse dallo stato dei narcos. Successivamente il Palazzo Nazionale, che si trova appunto in quella piazza, che era già stato preso d'assalto lo scorso 8 novembre, è stato nuovamente dato alle fiamme, cioè è stata data alle fiamme la porta d'ingresso. A quel punto la polizia è entrata violentemente nella piazza, sgomberandola, accerchiandola, chiudendo tutte le vie laterali e fermando diverse persone. Comunque appunto una giornata di mobilitazione veramente significativa, che appunto ha saputo oltrepassare i confini dello stato messicano del Guerrero, che è dove è avvenuta inizialmente appunto questa sparizione degli studenti, e che a tutti gli effetti appunto ha assunto una rilevanza nazionale, andando proprio a svelare quella quotidianità di violenza che c'è in Messico, e puntando insomma il dito contro le responsabilità dello stato. Sul nostro blog qa-torino.blogspot.it trovate appunto questo lungo comunicato del collettivo Solidaria 43, che racconta appunto tutto lo svolgimento della giornata assieme ad alcune foto e video, e va a fare appunto alcune considerazioni. Noi ovviamente continueremo a monitorare l'evolversi della vicenda, speriamo anche nelle prossime settimane di riuscire ad organizzare qua qualcosa a Torino, insomma un momento di confronto e di dibattito, perché comunque la questione è importante, sicuramente sta riuscendo anche a riscuotere una certa attenzione nonostante la distanza, le distorsioni mediatiche e tutto il resto, quindi rimaniamo appunto sintonizzati su quanto sta accadendo in Messico, e sicuramente riproporremo volentieri anche dei momenti di collegamento con i ragazzi di Solidaria 43 in vista delle prossime puntate. E su questo facciamo uno stacco musicale, poi ci spostiamo altrove. È il presidente. Arriva il capone. Voilà, passe le système. Majeur, j'assiste même. Master, frère, le système. Et les majors, comme à l'ancienne. 2003, je lève le verre à l'ancienne. N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N- vite. Qui sonore avec la 50 pour ma hip hop et pas radio. Rap rodeo, aussi loin de la red gore que de la red dilouis dès lors. Certains se réveilleront plus sur des lauriers. Hachichi de l'Orient, juste encore vous l'auriez. Oubliez Youssef alias Rival. Ici Vanda, international man. Si graba da un CD, per me non si discute. Una scelta a distanza di chilometri, di usi diversi in corsi per cui esplodono i manometri. È una cultura di nicchia con casse rullanti che picchiano e premi e talenti non spiccano. Non è una novità, il nuovo è solo consumismo e preferisco la normalità. Ti aiuta ad andare fuori sincronia con i telecontenitori. Non vuoi rientrare in sintonia quando l'economia mondiale cresce solo per chi favorisce guerre di interesse. 11.43 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ricordiamo ancora una volta i contatti prima di andare avanti: 011 24 95 669, per chiamarci, 346 66 73 263 per scriverci. E allora, come detto in apertura di puntata, andiamo a commentare un pochino quella che è stato il corteo di Londra del 19 novembre. Abbiamo visto scendere in piazza più di 10.000 persone. E molto interessante rispetto a questa data non è tanto il corteo in sé, quanto il fatto che di fatto l'appuntamento era indetto non in risposta all'ennesimo taglio, l'ennesima riforma, bensì quasi come fosse effettivamente un attacco, nel senso in cui i tagli che sono stati apportati al mondo della formazione, che hanno comportato un aumento veramente considerevole, a volte del doppio se non di più, delle tasse delle università inglesi, risale ormai è un processo molto più lungo, ma l'ultimo taglio risale ormai a 2 anni fa. Quindi questo enorme corteo, che appunto non si vedeva da tempi di piena mobilitazione, di fatto è un fulmine a ciel sereno in quella che è stata una fino adesso una completa inefficacia nel dare risposta a, queste, a questi provvedimenti. Bene, sembra che, diciamo, Londra si sia svegliata e per fortuna, nel senso in cui appunto il fatto che questo corteo si sia dato una sorta di calendario autonomo, che si sia autoconvocato, non in risposta a qualcosa, è sicuramente un dato di forza. A tal proposito abbiamo ritenuto molto interessante un articolo di David Graeber pubblicato su The Guardian. David Graeber, antropologo statunitense, già protagonista di Occupy Wall Street, parte del collettivo di cui abbiamo anche parlato recentemente in occasione della visita di Andrew Ross a Torino, Strike the Debt, appunto impegnato rispetto da sempre rispetto alla battaglia contro il debito studentesco, professore alla Goldsmiths di Londra, un'università molto, diciamo, molto buona, che in pieno rappresenta tutte quelle logiche che poi tutte quelle logiche che vengono messe a critica, che sono state messe a critica in questa giornata, ma poi anche in maniera più articolata dai discorsi dei vari collettivi e dei siti. Cosa, diciamo, nota, cosa va a dire David Graeber in questo articolo, di cui ricordiamo tra poco pubblicheremo una traduzione sul nostro blog qua-torino.blogspot.org e non è vero .com .it addirittura, va bene, ciao. Comunque, dicevamo, cosa va a sottolineare effettivamente? Vabbè, innanzitutto Graeber, appunto, l'abbiamo detto, è sempre stato impegnato non solo a parole ma anche fisicamente in quelle che sono state le mobilitazioni degli ultimi anni, quindi apre con un titolo che prende posizione in maniera molto netta e dice: gli studenti hanno ragione a scendere in piazza contro i mercati. La prima cosa che sottolinea David Graeber è proprio quella che dicevamo in apertura, infatti la forza che un corteo di questo genere può avere, nel senso di la forza, l'importanza politica di un movimento nella capacità di darsi scadenze proprie, autonome. Sicuramente non possiamo dire che questo sia un movimento che è in grado di darsi scadenze proprie, autonome, perché ancora non possiamo dire che sia nato una mobilitazione, sicuramente, però se questo è il primo passo, beh, allora gode di tutta quella forza che l'essersi autoconvocati innegabilmente dà. Analizza un po' la composizione di quella piazza, dicendo che sicuramente raccoglie quella che è l'eredità delle lotte del 2010, per esempio, e che però vede anche tantissime facce nuove, tutta una serie, diciamo, dice tutta una fascia che di fatto in questo momento appunto scende in piazza anche in questo modo, perché non tanto perché c'è un provvedimento singolo che va in una direzione sbagliata, quanto perché è la direzione tout court a essere assolutamente inaccettabile. Quindi fa poi appunto fa eco per date che si sono, dice, c'è stata questa grande assemblea alla fine del corteo che ha proprio messo in campo questa diversità e che l'ha mostrata in tutta la sua ricchezza, tant'è che ci si è dati ben due date, una il 3 dicembre in un giorno di occupazioni e un giorno di sciopero, un po' sul modello delle proteste del Quebec, di cui a questi microfoni avevamo parlato abbastanza ampiamente, e, per il 6 dicembre. Ovviamente il nodo che Graeber attacca in maniera molto, molto chiara è quello del debito, della finanziarizzazione della della formazione e quindi dell'indebitamento studentesco. E, appunto, dice, dal momento tanto pesa ormai questa dinamica nella formazione degli individui che appunto accedono all'università, tanto quello stesso peso sta facendo appunto quella, diciamo, sta secondo lui mettendo in atto un po' quella che è la teoria della pressione, appunto impossibile, non c'è futuro, impossibile sopportare la l'ingerenza così forte nella vita, perché abbiamo visto il rapporto tra debito e vita abbastanza articolato in diverse venature. E quindi sostanzialmente la cosa che lui dice è che questo tipo di peso adesso sta producendo finalmente un rifiuto a questa dinamica. Fa un ragionamento, diciamo, economico, nel senso di dire quella che l'Inghilterra fa è una scelta completamente politica. Non si può dire, per esempio, ora abbiamo appunto parlato del Messico, sicuramente non la si può, rispetto alle notizie che abbiamo dato prima, non la si può definire una situazione rosea, e anzi con gli elementi della scorsa puntata che i ragazzi di Solidaria 43 ci hanno fornito abbiamo capito che appunto l'attacco all'istruzione anche lì è abbastanza serrato, però appunto faceva l'esempio della situazione recente in cui le università sono gratuite in determinati paesi che non si può dire godano di economie stabili o ricche, e che quindi, dice, il discorso delle tasse universitarie, del pagamento così alto per la formazione, è un discorso squisitamente politico che ha che avvantaggia gli interessi sostanzialmente di quelli che sono i creditori. Una cosa, diciamo, quindi interessante la riflessione di Graeber. Poi un po' affrontarla più nel dettaglio rimandiamo ancora una volta al blog, perché sicuramente ognuno deve poter leggere con i propri occhi. La nostra riflessione a riguardo è appunto forse un po' troppo entusiastici questi toni, i toni di questo articolo, nel senso in cui appunto viene presentata una consapevolezza quasi marmorea del fatto che non ci sono possibilità per il sistema vigente, che non ci sono assolutamente più argomenti a favore del capitalismo, cosa che purtroppo non trova riscontro in maniera così liscia nella realtà. Magari diciamo la perfettibilità di questo sistema è una speranza di molti che è difficile far cadere. Dopodiché sicuramente noi seguiremo queste date che abbiamo detto del 3 e del 6 dicembre con molta curiosità, molto interesse. Cercheremo anche di trovare appunto un po' di contatti di prima mano, informazioni fresche da Londra, per farci raccontare anche un po' che aria tira in diretta. E allora, sull'inguaribile entusiasmo di Graeber, che comunque ogni tanto va bene anche a queste frequenze, vi lasciamo una pausa musicale, poi torniamo in diretta e ci spostiamo invece qua a Torino per darvi alcuni aggiornamenti. Mai più nessuno senza casa, ed ogni scopolo sarà una barricata. Qualcuno il piano casa, i renzi lupi. Ad ogni scopolo sarà una barricata. Mai più nessuno senza casa, occupazione abitativa. E se la casa è un diritto, l'affitto una rapina. Ad ogni scopolo sarà una barricata. Mai più nessuno senza casa, occupazione abitativa. E se la casa è un diritto, l'affitto una rapina. La casa è un diritto, il nome

catodico, costa nostra, senza armonico, segnale storico. Leggi attentamente l'avvertenza, cappa al 20 mg, osserva e pensa. Buche per la strada che ora salti, ruota e dei papaveri sono alti, alti, alti. Concentrati, comprimiti, introduzione arteriosa, pensieri senza limiti, non ci fare caso, parole che sfuggono dal controllo labiale, vengono fuori da dentro, per caso, non dal razionale, come soldatini in fuga dalla guerra mondiale, come cellule impazzite di una massa tumorale, la vita, chi te ne frega, chi la disprezza, chi per sempre ogni minuto, ogni secondo non la spreca più, questioni di ritmi, bioritmi, scanditi in controtempo, comunicando con costellazioni abissali, microscopiche, creazioni, preso la mira, per guardare i miei universi intercostali, un dito, due dita, tre dita, poi una mano prendila o sfiorala, oppure come un'assassina mo giocaci e amala. Entra e vieni con me, ti renderò felice. Leggi attentamente l'avvertenza, questo è il castello, cappa al 20 mg, osserva e pensa. Buche per la strada che ora salti. Entra e vieni con me, lo sai che i papaveri sono alti, alti, alti. Ti amo. 12:01, siete sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Dopo uno sguardo al quadro internazionale con gli aggiornamenti dal Messico e dall'Inghilterra, torniamo qui a queste latitudini, ci spostiamo per raccontarvi alcuni avvenimenti che riguardano le nostre facoltà, l'Università di Torino, e in particolare per andare a commentare brevemente un episodio accaduto la scorsa settimana. Nel frattempo, scusate, arriva un SMS finalmente a rompere la solitudine di questa mattinata in studio, un Cisti che ci arriva qui al 346-667-3263 che ci segnala che i vigili fanno multe antistrisce blu, che vabbè, immagino per, insomma, per chi non paga il parcheggio, alle macchine in via Bertollè, quindi zona San Salvario, quindi per chi fosse da quelle parti, Cisti a chi ha lasciato la macchina in giro senza pagare. E tornando a noi, dicevamo la scorsa settimana, proprio l'Università di Torino è stata protagonista di un episodio abbastanza preoccupante. Mercoledì, infatti, due studentesse della che dovevano laurearsi alla laurea magistrale alla facoltà di lingue presentavano una tesi sulla Palestina. Hanno avuto però, insomma, la sfortuna di trovarsi nella commissione di laurea una docente, appunto, della facoltà, tale Daniela Santus, che non appena ha letto il titolo della tesi si è rifiutata di presiedere la seduta e ha pensato bene di alzarsi e andarsene, facendo peraltro perdere poi due ore di tempo per trovare qualcuno che andasse a sostituirla, perché altrimenti, appunto, non era possibile procedere con appunto la proclamazione di queste due studentesse. Questo, insomma, già solo per il fatto che magari uno il giorno della sua laurea non è esattamente rilassato e ben disposto per il mondo, dover stare poi lì due ore ad attendere che qualcuno vada a sostituirla, insomma, già di per sé fa abbastanza pensare. Ma al di là di questo, insomma, perché tanta solerzia nell'andarsene e addirittura abbandonare la seduta di laurea? In realtà questo non ci stupisce più di tanto, perché la stessa professoressa, insomma, era già salita agli onori delle cronache alcuni anni fa, precisamente nel 2005, quando proprio come collettivo avevamo organizzato una serie di iniziative, di petizioni perché venisse impedito l'invito di alcuni rappresentanti istituzionali di Israele che erano stati invitati, appunto, a tenere delle lezioni qui all'università dell'Università di Torino. E tra i promotori più agguerriti di questo incontro con Israele c'era proprio la Santus, che ha detto anche di diversi studenti della facoltà di lingue ha appunto un rifiuto pregiudiziale verso anche solo la parola Palestina, perché appunto le è bastato leggerla su l'intestazione della tesi per decidere di andarsene, che appunto nelle sue lezioni più volte così dà dei racconti, delle interpretazioni quantomeno faziose della questione tra Israele e Palestina, rifiutandosi però poi di insomma affrontare qualsiasi tipo di confronto con gli studenti, qualsiasi tipo di critica. È significativo tra l'altro che il docente che poi l'ha dovuta sostituire in questa seduta di laurea, tale Panero, in un'intervista poi alla stampa, che era stato tra i primi giornali a dare la notizia di questo episodio, abbia detto che insomma non gli interessava tanto quanto quello che poteva aver scritto la sua collega, ma era significativo che questa professoressa non avesse letto la tesi, quindi non avesse idea di cosa parlava questo lavoro delle due studentesse, ma semplicemente leggendo il titolo abbia deciso di andarsene. E questo niente, insomma, la dice lunga su quello che accade tra le mura delle nostre università, che viene presentato appunto come il luogo principe del confronto democratico e della discussione, ma in cui a quanto pare per qualcuno ancora parlare di Palestina è un argomento tabù. Noi avremmo insomma avuto piacere anche di discutere dell'accaduto con le due studentesse che loro malgrado sono state protagoniste di questa vicenda. Loro insomma ci hanno detto che per il momento preferivano lasciare un attimo calmarsi le acque, perché comunque hanno avuto anche un'esposizione mediatica abbastanza forte e sicuramente non gradita, appunto in una giornata in cui uno dovrebbe porre fine a lunghi anni di fatiche tra le mura universitarie, e trovarsi insomma coinvolti in questo episodio sicuramente qualcosa di poco piacevole. Però se nelle prossime settimane insomma con anche con più calma avremo modo di contattarle, ci farà sicuramente piacere anche discutere con loro dell'accaduto, andare anche a riflettere sul fatto che episodi di questo tipo vengano tollerati. Non abbiamo insomma letto, mi sembra, alcuna dichiarazione da parte del rettore Ajani, che invece in altre occasioni è pronto sempre a farsi paladino e difensore della libertà di espressione, quando ad esempio c'è da scortare i fascisti del FUN dentro l'atrio di Palazzo Nuovo attorniati da decine di celerini. Però in nome della libertà di espressione questo è possibile, però poi insomma non una parola di condanna quando invece una docente si permette di abbandonare una seduta di laurea perché si rifiuta così anche solo di aprire una tesi che parla di Palestina. E niente, quindi questo ci sembrava comunque importante andare a ricordarlo. Sul nostro blog abbiamo scritto un breve commento, vedremo appunto se nelle prossime settimane ci sarà modo di ritornare sulla questione assieme anche alle due ragazze che sono state appunto loro malgrado protagoniste di questa vicenda. Adesso facciamo un breve stacco musicale e poi torniamo in diretta. Help me cope with knowing me and you just shouldn't be together, and I'm growing. We stand in sento il vento fra i capelli e le pale degli elicotteri. Tu pensi alle favole, io penso a chi vuole fottermi. Tentano di confonderci, vogliono solo estorcermi. Il senno che mi rimane nel sonno tocca contorcersi. Credo nell'uomo e nella sua carta di credito. È un demonio se c'è, non se la mena come il suo competitor. La mia generazione compra il tuo debito, ma la nostra coscienza non incontra il tuo merito. Non ci torni neanche con le tue bombe. Ricordati che le tombe non hanno casse forti. L'ipnosi non mi tocca per ora, ma la si tange. Prega genuflessa su di un raso rosso sangue. Qui si batte la fiacca, questo sistema sfianca. Ti schiaccia come una platta e chi alza la testa schiatta. Sventola i tuoi diritti e poi te li straccia in faccia. Poi torna chiedendo un voto che suona più di minaccia. Una manciata di uomini che gioisce. Un video poker ci riunisce in questa apocalisse in pixel. Come un dramma che suona fin troppo comico. Liriche multitasking in finestra per te su monitor. Stato di attrito cronico. Ferite aperte e cucite. Vite mediocri coperte da tasso alcolico. Madre riparami da queste piogge acide. Una specie che lega le sue stesse labbra. Sei bellissimo, ci si muove come in una palude pianissimo. Qui si muore, visto negli occhi la iena. Provo mosse nuove, se non ci si muove questa è l'ultima scena. Siamo presi bellissimo, ci si muove come in una palude pianissimo. Qui si muore, visto negli occhi la iena. Provo mosse nuove, se non ci si muove questa è l'ultima scena. Siamo stanchi dei vostri soldi contanti, dei vostri toni arroganti, dei vostri SUV bianchi, e di vedere i nostri sogni infranti, dei vostri numeri illuderci che tanto ce la faremo. Ma in quanti sensi di colpa che inculchi con cui non copri le facce consumate da lacrime endocrine. La vostra governance messa a repentaglio da pochi nerd fanno saltare i server e i nervi di chi li sfrutta. La fretta non ci concede più tempo, ma riflettiamo l'ologramma quotidiano di quello che siamo. Basta un click e lo cambiamo, ma non ne abbiamo percezione. Fatto sta che non ci tocca mai premere il bottone. Vite da pusillanime senza quasi pentirsene. Bacia la figlia, sappa una birra, poi chissene. I detrattori là fuori non hanno dress code, mani sul collo come il morto di Vampire Slash. Io nel dubbio resto, se no è proprio da stronzi lasciare la propria firma e sparire in un mente non si. Quasi ridendo, quasi provando pena, prendersi sul serio con le dita incrociate dietro la schiena. Siamo presi bellissimo, ci si muove come in una palude pianissimo. Qui si muore, visto negli occhi la iena. Provo mosse nuove, se non ci si muove questa è l'ultima scena. Siamo presi bellissimo, ci si muove come in una palude pianissimo. Qui si muore, visto negli occhi la iena. Provo mosse nuove, se non ci si muove questa è l'ultima scena. E 15 sui 105 e 250, siete all'ascolto di Parole Ribelli. Andiamo avanti come annunciato in apertura di puntata, andiamo un po' a dare aggiornamenti sul territorio cittadino. Che cosa accade il primo dicembre? Il primo dicembre l'Ateneo Torinese è pronto ad inaugurare la nuova Aula Magna dentro alla Cavallerizza Reale. La Cavallerizza, da noi nominata già innumerevoli volte, però il riferimento, diciamo, a un altro versante dell'edificio, ovvero l'occupazione portata avanti dall'Assemblea Cavallerizza 14:45. Bene, il nostro sguardo si sposta, va direttamente di fronte e si punta sull'Aula Magna. Andiamo quindi un po' questa nuova Aula Magna, importante, nuova con la N maiuscola, che cosa di fatto ci porterà. Ma forse è interessante andare a analizzare le parole dell'università stessa riguardo a questo progetto. A tal proposito, appunto, abbiamo scritto un pezzo sul nostro blog proprio a partire da questo paragrafo che si trova. Ci sono vari materiali che lanciano appunto questo evento, questo nuovo sito di pregio dell'università. Tra le cose scaricabili c'è questo opuscolo e la cui conclusione, che ne è un po' la somma, dice ciò. Il progetto della nuova Aula Magna dell'Università degli Studi di Torino si configura non solo quale occasione di rinnovamento interno alle strutture attualmente a disposizione dell'ente, ma anche quale occasione irrinunciabile di rinnovamento di una parte di città che da lungo tempo, per il suo peculiare carattere, viene vissuta in modo saltuario ed è per lo più sconosciuta. Tuttavia, le sinergie connesse alla prossimità con altre strutture universitarie e il suo peculiare carattere di luogo denso di storie e di significati elevano il maneggio chiablese e le annesse scuderie al luogo particolarmente idoneo ad accogliere quelle attività di rilievo e prestigio che si misurano con la vita universitaria. Il maneggio chiablese è così stato concepito, un involucro prezioso che accoglie, avvolgendola, la nuova Aula Magna che a sua volta si distingue per tecnologia, acustica, eleganza dell'interno. Allora, dopo questa bella filastrocca, diciamo, fa purtroppo acqua da tutte le parti. In che senso? Allora, diciamo, le cose che dicono sono un po' tre. Una è un passaggio sul pezzo di città che l'università prende in gestione, di fatto, cioè, si vede questa consapevolezza dell'importanza dell'intervento da un punto di vista strettamente urbanistico che l'università fa. Poi la scelta di fare un'Aula Magna, la funzionalità di questo luogo e in ultimo l'avanzata tecnologia, quali sono le peculiarità di questo luogo che si distingue per tecnologia acustica, eleganza dell'interno. Ora, su questa cosa, l'eleganza de gustibus, dopodiché la fantastica tecnologia dell'Università di Torino, che aveva mostrato la sua geniale faccia costruendo un campus pieno di proiettori che non si possono utilizzare perché non ci sono tende da mettere su le facciate di vetro, quindi l'oscurità necessaria per proiettare non può essere raggiunta. Bene, mostra ancora una volta la sua genialità e vediamo per esempio nella nota stampa dell'ANSA in occasione del concerto privato del 12 novembre che diceva un luogo versatile che può accogliere anche concerti. Sì, il luogo può accogliere anche concerti a patto che venga smontato il palchetto dei relatori di eventuali conferenze. Quindi la funzionalità e la versatilità di questa Aula Magna sono abbastanza, diciamo, sono abbastanza di dubbia funzionalità effettiva. Quindi sostanzialmente, andando appunto invece un po' più nel vivo della questione politica, a parte appunto l'evidente idiozia di questa gestione, la visione della città che l'università stessa propone è abbastanza, per usare un eufemismo, insufficiente, per essere sinceri abbastanza colpevole, dal momento in cui dire che la cavallerizza, che appunto ben sappiamo è in vendita da parte del comune, è stata lasciata da decenni abbandonata, non viene vissuta per il suo peculiare carattere e suona quasi come una provocazione, nel senso in cui l'università rimuove completamente tutto il contesto che determina le trasformazioni di questo territorio, come se il territorio si muovesse da sé senza che ci siano delle decisioni politiche al riguardo. E pensare che il fatto che la cavallerizza sia stata abbandonata completamente dall'amministrazione sia meno rilevante di una peculiarità del luogo in sé risulta un po' ridicolo, dal momento in cui si spera che risulta un po' ridicolo. Mi fermo qua perché veramente se no mi incarto. L'altra questione abbastanza preoccupante è appunto come è stato concepito il maneggio chiablese e le scuderie, a cosa sono rispetto a cosa vengono definite idonee dall'università, rispetto all'accoglienza di quelle attività di rilievo e prestigio. L'università dice apertamente che ci sono degli eventi che sono adatti all'Aula Magna e ci sono degli eventi che non lo sono. Quelli di rilievo e prestigio sono idonei, quelli che non lo sono non varcheranno quella soglia. nulla di nuovo per noi, che di fatto sappiamo perfettamente che non c'è nulla di prestigioso nel seguire una lezione dal corridoio seduti per terra, non c'è nulla di prestigioso nel mangiare su una panchina, non c'è nulla di prestigioso nel dover andare a fotocopiare libri a sgamo perché magari la copisteria ti fa problemi perché è fuori legge, dall'altra parte il professore invece chiede il libro originale però non ce lo si può permettere. Ecco, sostanzialmente la domanda che appunto, come diceva Francesca prima, bisogna che Ayani prenda una posizione. Allora Ayani una posizione l'ha presa, ha deciso di spendere 6 milioni di euro dichiarati soltanto, e quindi chissà quanti sono in realtà, in un progetto completamente di facciata, completamente di vetrina. Ed ecco che il fatto che non si venga, non si prenda posizione, nemmeno appunto si rimuova completamente il contesto dell'amministrazione territoriale da parte del comune, da parte del sindaco, da parte degli amministratori, risulta inequivocabilmente colpevole, perché di fatto la politica che l'università sta portando avanti rispecchia molto quella di gestione del territorio, a vantaggio di operazioni mediatiche, di vetrinizzazione, sceniche, che poi di fatto non solo non portano nessun miglioramento nella vita quotidiana dei torinesi, ma anzi la peggiorano, perché ricordiamo che la maggior parte di questi grandi interventi poi di fatto che cosa fa? Crea altro debito o altra speculazione, o comunque di fatto sottrae possibilità a tutti coloro che non rientrano nella piccola cerchia che gode del beneficio, per esempio, di usare un'aula magna o anche di andare eventualmente nell'albergo di lusso che il comune vorrebbe fare alla Cavallerizza. Quindi il 1° dicembre sostanzialmente l'Università di Torino ancora una volta sceglie di celebrare se stessa, celebrando aprendo l'anno accademico in questo luogo nel maneggio chiablese, mandando un messaggio agli studenti molto chiaro: la priorità non sono non è la possibilità di accedere all'università cercando di abbattere i costi, per esempio raggruppando facoltà che non hanno spazi come lingue o psicologia, piuttosto che andando ad abbattere i costi della vita universitaria, che ricordiamo spende fior fior di quattrini in affitti di palazzi come Palazzo Venturi, invece di spostare per esempio Palazzo Venturi e rendere il maneggio chiablese, le scuderie, un'occasione per aule, per la didattica, aule studio per gli studenti. Si dà più spazio alle lectio magistralis e ai blasonati professori che passano di turno invece che a tutto il resto. Allora l'Università di Torino dice chiaramente che questa è la sua priorità, gli studenti a nostro parere altrettanto chiaramente dovranno dire che a questa pantomima non ci stanno. Bene, andiamo avanti un po', ovviamente ricommenteremo la notizia in seguito perché questo 1° dicembre entro poco arriverà. Andiamo avanti con un po' di musica e poi ci risentiamo sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ogni giorno con la carica morda, una bomba scoppia in coda, tra la plastica e la gomma, una faccia tra la fretta. Senti che ti svegli con il timbro del locale sulla mano, dopo stringi un'altra mano che la sera rientra nel locale. Devo areare quest'alveare, vuoi dissotterrare, lascia farla roteare, invare. Sta mano, questo è ferro, questo è piuma, mani che si stringono e qualcuno si frantuma. La mia testa fa la schiuma, con la bula che mi luma, ed io che sfido la fortuna dai tempi delle bruma. Siti che schiaccio, io che gli do su, su, su, dipingo tutto con parole blu. Hai da cambiare costumi e usi, limitare gli abusi e via dai musi delusi. In più venderti illusi, tanto non lo usi. Mani sulle sbarre fredde dei cancelli chiusi, paura del vuoto, del fuoco, del fango in cui nuoto da poco. Mi frega finché sto con soggetti, concetti di inchiostro al posto delle dita. Fai progetti che aspetti dietro un'altra vita. In cima c'è la tua anima colpita e sai che non sparisce tutto con una dormita. Quale cultura può spingere Dragostea a zittire la nostra idea, partendo dalla trachea? Chi ci ha imposto un percorso obbligato all'Ikea ci rifila dei panini che provocano diarrea.

drammatizzo un cazzo, in quanto vedi come vedo io qua sotto e non stai tanto. Se l'hai visto, se vuoi pezzi che ti guardano incagnisco, esco quando è buio, questo sono fuori di qua più presto. Allungo un destro sulle note, senti come suona, giro col più della mia zona e giro tutta Roma. Tornate a scuola e rinunciate, il suono dei miei amici a tappetone sulle note, le nocche sbucciate, ricominciate a fare meglio dall'inizio, butto sangue per due linee scritte bene che incidono un disco. Questo è il circolo vizioso, casse rotte, massi più sponda forte e lascia sassi, forte i passi più lontano, non vengo con voi, fatti un giro per le strade alla larga da noi. Tu sai bene come stai, anzi vai alla grande, beviti tutte le cazzate, non fare domande. Il primo che si arrende lo capisce quanto costa, cazzi vostri, ho provato a fottere la cosa nostra. La cosa nostra, niente ci sposta più, non ce la butti giù. La cosa nostra, parte dal basso, col passo compatto per fare la cosa nostra. La cosa nostra, niente ci sposta più, non ce la butti giù. La cosa nostra, parte dal basso, col passo compatto per fare la cosa nostra. La cosa nostra suona, se tradisci non perdona, e se funziona tu sparisci, cambi zona. Suona Roma e non la butti giù, e più tu la tiri verso il basso, più io passo basso. La cosa nostra, contatto ad alto voltaggio, ogni passo compatto, ogni sasso volato era solo un assaggio. La cosa corre forte, butta giù forte, accende fiamme sulla giacca di ogni porta forse. Si parte piano, passa da mano a mano, su ogni cassa che rompiamo e sulla massa bombe a mano. A testa alta vola nella città di chi ti ruba i soldi mentre ti racconta che ti aiuterà. Alza le mani, non chiudo i patti strani, nella giungla coi compari, se li chiudi sono cazzi amari. È una massoneria che prende il via dal basso, col passo sulla via senza dover chiedere un cazzo. La cosa nostra, niente ci sposta più, non ce la butti giù. La cosa nostra, parte dal basso, col passo compatto per fare la cosa nostra. La cosa nostra, niente ci sposta più, non ce la butti giù. La cosa nostra, parte dal basso, col passo compatto per fare la cosa nostra. La cosa nostra, nostra, nostra. La cosa nostra, nostra, nostra. La cosa nostra, nostra, nostra. La cosa nostra, parte dal basso, col passo compatto per fare la cosa nostra. 12:34 in questo momento, anche per questo martedì Parole Ribelli si avvia verso la conclusione. Andiamo a dar conto di una notizia che ci hanno comunicato poco fa rispetto alla situazione degli sfratti in città. Questa mattina era previsto lo sfratto di una donna in zona Mirafiori. In zona Mirafiori. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri, che però hanno insomma preso atto del fatto che la persona in questione era tra l'altro gravemente malata, e quindi hanno rinviato lo sfratto al 27 gennaio. Ok, quindi l'infame pratica del 610 in questo caso è stata evitata, una serie di compagni erano accorsi sul posto. Nel frattempo non siamo appunto riusciti a metterci in contatto con loro prima della fine della puntata, però insomma, visto che comunque si è concluso con, fortunatamente, con un rinvio, andiamo a darne notizia noi, insomma vedremo poi più avanti come proseguirà la cosa. E andiamo a dare un po' di appuntamenti prima di lasciare la parola al GR. E mercoledì, proprio in università, dalle 13 in poi, ma con fulcro alle 17, ci sarà questo evento che si chiama Libertà di Affissione. Libertà di Affissione perché recentemente il rettore ha emesso una bolla che vieta l'affissione di qualunque genere di manifesto dentro Palazzo Nuovo. Allora, dopo continuano i provvedimenti per rimuovere qualunque forma di capacità di pensiero autonomo nell'università, dopo il codice etico che impedisce ai dipendenti di parlare dell'università se non in termini ai dipendenti pubblici, in realtà poi non solo universitari, se non in termini lusinghieri del proprio posto di lavoro, ecco, non si anche i muri dell'università è meglio che stiano zitti, così, così che non veicolino nulla. Bene, mercoledì alle 17 ci si vede in atrio per tappezzare tutto l'atrio di Palazzo Nuovo di qualunque cosa. Di fatto andare in università è sempre un'occasione per entrare in contatto con i propri coetanei, per poter condividere passioni che riguardanti l'università stessa ma anche oltre. Quindi è assurdo che per essere studente dell'Università di Torino non ci si debba scegliere di rinunciare alla libertà di prendere un cartello e scrivere mi piace suonare la batteria, cerco chitarrista, incontriamoci e facciamo musica insieme. Ecco, questo è completamente assurdo. Quindi poesie, foto, scarabocchi, disegni, insulti, dichiarazioni d'amore, messaggi politici vari ed eventuali, qualunque cosa deve trovare spazio su quelle mura e mercoledì lo farà. Sì, tra l'altro insomma fanno anche abbastanza ridere le spiegazioni accampate dall'amministrazione universitaria per giustificare questa cosa. A quanto pare sarebbe uno spreco di tempo eccessivo per la nuova ditta che si occupa delle pulizie, che quest'anno ha cambiato l'appalto, appunto impiegare del tempo a staccare dei manifesti, che insomma intanto la soluzione potrebbe essere non staccarli, ma al di là di ciò anche il fatto che su un edificio che insomma di bello ha sempre avuto poco fin dalla sua inaugurazione, insomma considerare una forma di degrado attaccare dei fogli su quelle colonne color marroncino scrossato fa abbastanza sorridere, mentre poi tutta attorno alla prima goccia di pioggia ci piove in testa eccetera eccetera. Quindi da domani per tutta la giornata a partire dalle ore 13 saremo in atrio, a disposizione post-it e altri strumenti di molestia, oltre che scale altissime per evitare che chiunque possa arrivare a staccare i vostri pensieri, quindi raggiungeteci in atrio a partire dalle ore 13. E adesso, prima di chiudere, andiamo a leggervi come di consueto anche qualche altro appuntamento dei prossimi giorni. Partiamo dalla giornata di oggi. Confermata come sempre la cena all'asilo Benefit Porfido questa sera, quindi dalle ore 21 in via Alessandria 12, cena Benefit all'asilo occupato. Mentre qui a Radio Blackout, in occasione della giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne che si celebra proprio oggi, il collettivo Medea organizza un reading proprio qui in via Cecchi dal titolo Non mi pento di nulla, storie di donne che si sono ribellate alla violenza maschile, e l'appuntamento è a partire dalle ore 20:30. Andiamo a dare un'occhiata anche ai prossimi giorni. E allora mercoledì 26 ore 19 cena Bella Vita al Mezcal Squat, porta quello che vuoi trovare, Parco della Certosa, Collegno. Mentre arriviamo a giovedì 27 a partire dalle ore 10 della mattina, picchetto di solidarietà con gli arrestati del 3 giugno, ricordiamo la Maxi operazione che portò a decine di arresti contro episodi di lotta per la casa dell'ultimo anno. Il tutto avverrà in concomitanza con l'udienza preliminare del processo che vede appunto imputati diversi compagni e compagne, molti dei quali ancora sottoposti a misure restrittive o in carcere, agli arresti domiciliari, insomma comunque ad altre limitazioni della libertà. L'appuntamento è in Piazza della Repubblica con l'invito a partecipare numerosi, basta sfratti. E sempre giovedì 27 alle 21 in Cavallerizza vanno avanti i Talk Shock Days, ovvero questi talk show satirici un po' a metà tra appunto la satira e l'informazione. Ricordiamo, giovedì scorso c'è stato il primo appuntamento sull'Expo, giovedì prossimo ci sarà un altro appuntamento. E sempre a proposito di Expo, vi ricordiamo un altro appuntamento che si terrà qua in Via Cecchi, in quel di Radio Blackout, all'interno della rassegna Pulp, la polpa dei libri. Questo venerdì 28 novembre alle ore 21 ci sarà la presentazione del dossier Nessuna faccia buona, pulita e giusta, Expo 2015. Dalle ore 20 ci sarà un buffet qua nella sala di Via Cecchi a seguire appunto la presentazione del dossier e un dibattito con poi DJ set a cura di Esplosivo insieme insieme a Psychedelia, Snoopy e Trash Block. Il tutto sarà Benefit Radio, quindi partecipate numerosi. E intanto al 346-667-3263 ci arriva un'altra segnalazione di appuntamento che segue la riunione che si è tenuta qui ieri a Radio Blackout in vista della giornata di sabato 29, quando è stata convocata una manifestazione in via Artom da toni insomma spiccatamente razzisti. È stato stilato un appello a partecipare appunto contro questo corteo di Forza Nuova che è stato appunto lanciato per sabato, l'appello appunto a esserci per insomma andare a dare degli altri contenuti a quella giornata rispetto anche alle problematiche di quel quartiere, evitare appunto di appiattire tutto su discorsi beceramente razzisti e xenofobi. E insomma, rispetto a questo, immagino che nei prossimi giorni uscirà un volantino, una convocazione, quindi così non sintonizzatevi sulle frequenze di Blackout per avere maggiori informazioni. Noi su questo direi che vi salutiamo, vi lasciamo a un ultimo pezzo per poi far spazio al GR. Non vediamo al di là del vetro ancora Simone, quindi non sappiamo se Cattivi Pensieri andrà in onda o meno. Comunque vi invitiamo lo stesso a rimanere sintonizzati sui 105.250 e niente, noi ci risentiamo martedì prossimo. Un saluto e un augurio di buona giornata da Francesca. E una buona giornata e un saluto caloroso anche da Eddie.